Bene, siamo in collegamento con l'autore e regista Fabio Pisano per quanto riguarda lo spettacolo Celeste che sarà in scena al Teatro Studio 1 qui a Roma dal 19 al 21 gennaio. Allora Fabio, intanto cominciamo con questa storia. E che storia è Celeste? Celeste, prima di tutto buongiorno a tutti. Celeste è una storia vera, è una storia tristemente vera che ha avuto i suoi natali a Roma proprio, quindi siamo felici di debuttare, diciamo, la prima nazionale proprio lì nella città di Celeste, negli anni 40, gli anni ovviamente del terrore, gli anni forse più tristi della storia recente dell'umanità. Celeste è una ragazza, era una ragazzina di 18 anni quando nel 43 ci fu il rastrellamento del ghetto ad opera di, diciamo, di Kappler e del suo esercito, e lei viveva appunto nel ghetto romano, perché aveva origini ebraiche, lei e la famiglia. Lei fu, probabilmente, si dice, fu scossa da questo evento, e da lì iniziò questa collaborazione con la Gestapo e con le SS. Iniziò quindi, divenne una delatrice, iniziò a vendere la propria gente. E quindi la storia è una storia tristemente vera, come dicevo, perché ha avuto, diciamo, un riscontro molto forte all'epoca anche sulla stampa e presso gli organi di giudizio. Oh Fabio, come sei venuto a conoscenza di questa vicenda e come hai deciso poi una versione teatrale? Sono venuto a conoscenza della vicenda attraverso dei ritagli dell'epoca di giornale, è stato veramente un caso in realtà. Perché questa storia poi è stata completamente dimenticata, volutamente credo in realtà dimenticata, perché è insolito, anche se poi ho scoperto che all'epoca era frequente, diciamo, l'opera di delazione, ma l'ho scoperta per caso con un ritaglio di giornale che parlava di questa pantera nera, e da lì poi sono, diciamo, ho proseguito nelle ricerche anche negli archivi e ho tratto delle informazioni, e da lì, essendo io, diciamo, un aspirante, un autore teatrale, diciamo, aspirerò per tutta la vita a farlo, quindi ho pensato che sarebbe stato carino raccontarla in una pièce che diciamo, dà sapore epico, tra virgolette, quindi una drammaturgia epica, un dramma epico, ecco, in cui Celeste non si giustifica perché non abbiamo, diciamo, nessuna velleità di giustificare nessuno, ma si racconta secondo quello che può essere un punto di vista che ho potuto trarre da quello che ho letto, ecco. Come mai Pantera Nera? La chiamavano Pantera Nera perché a quanto pare, poi anche dalle foto in realtà si vince, lei era una ragazza bellissima, probabilmente la ragazza più bella del ghetto e forse una delle ragazze più belle di Roma all'epoca. Le fu dato questo nome perché lei aveva appunto i capelli scuri, neri, e questi occhi che avevano, poi l'ho anche dedotto da una serie di interviste poi viste successivamente, aveva questi occhi sempre di sfida, sempre pronti a fulminarti davvero. Lei non ha mai, da quello che sempre si evince ovviamente, non ha mai rinnegato il suo operato, anzi lei addirittura ha detto di aver aiutato gli ebrei, diciamo i suoi fratelli ebrei, come diceva lei. Pantera Nera perché le fu dato questo, perché lei aveva la capacità appunto di attaccare in maniera rapida, senza alcun sintomo, senza alcun preavviso. Senti, hai parlato di interviste. Ecco, come hai strutturato il lavoro? Raccontaci un po'. Sì, il lavoro in realtà è stato strutturato partendo da alcune frasi storiche realmente pronunciate da Celeste e realmente ritrovate. Una su tutte, in realtà, è la frase che scrisse una delle sue vittime, Anticoli Lazzaro, che incise nel muro del carcere di Regina Coeli, nella cella 306, dove fu rinchiuso la notte delle Fosse Ardeatine, una frase significativissima, a mio avviso, che è la frase su cui ruota tutto lo spettacolo. Che la frase la posso pronunciare perché è breve, dice: "Mi chiamo Anticoli Lazzaro, detto Bucefalo, pugilatore. Se non la rivedo la famiglia mia, è colpa di quella venduta di Celeste di Porto, rivendicatemi." Una denuncia drammatica in pochissime righe. E da lì poi ho tratto altre frasi realmente pronunciate da Celeste o dalla gente, diciamo, che ha vissuto l'epoca di Celeste, e abbiamo raccontato, ovviamente poi inventando, dialoghi sulla base di quello che ho potuto dedurre dei rapporti, ecco, che lei ha avuto con i vari colonnelli della SS piuttosto che con le camicie nere, tipo il suo compagno Vincenzo Antonelli e così via. Quindi lo spettacolo è strutturato tra dialoghi e monologhi, ovviamente inventati, però tutti tratti da frasi realmente pronunciate o realmente scritte. Fabio, che taglio hai voluto dare alla messa in scena e qual è l'attualizzazione? Sì, il taglio che ho voluto dare è un taglio molto, diciamo si dice d'avanguardia, ecco. La regia, io ho studiato con registi europei e mi sono reso conto che l'annullamento della scena in favore della parola e del corpo dell'attore adesso è la direzione, o comunque lo è stata sicuramente negli anni 90, soprattutto in Germania, e quindi ho dato questo genere di taglio, un taglio che focalizzi l'attenzione soprattutto sui corpi e sulla parola. L'attualizzazione, in realtà, io credo che una storia come quella di Celeste vada raccontata perché in quell'epoca è successo di tutto. E in questo di tutto raccontare il punto di vista di una ragazzina che tradisce la propria gente, che già fu tradita dalla storia e dall'Europa e dai dittatori dell'epoca, può essere interessante, può essere sicuramente un qualcosa che sposta il classico punto di vista che si ha su questa vicenda e ne racconta un'altra, ecco. Fabio, io ti ringrazio. Allora ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo Celeste al Teatro Studio 1 a Roma dal 19 al 21 gennaio. Un in bocca al lupo. Crepi, anzi mi sa che si dice auguri, viva il lupo. Sì, viva il lupo. Viva. Ciao, a presto Fabio.